Beh, abbiamo riniziato con un gioiello di inestimabile valore, così come qualche insomma, pubblicitario potrebbe dire, ma a parte gli scherzi, disco veramente eccezionale questo di Phil Coran, un vecchio leone che proviene addirittura dall'orchestra di San Ra, da sempre come il grande maestro interessato a una sorta di afrocentrismo, però virato in maniera marziana nell'impossibilità di ritrovare la terra madre, allora si cerca attraverso anche una futurologia, attraverso un uso piuttosto patafisico, surreale dell'ufologia addirittura, oltre che appunto di un'idea di futuro spinto, fantascientifica, che ha influenzato poi buona parte anche dell'afrofuturismo per molti aspetti. E con Phil Coran si va veramente fuori da, come d'altronde con il grande maestro San Ra, fuori dai generi, ma anche fuori da attitudini semplicemente musicali, per trovare invece forme linguisticamente sì musicali, ma che colgono veramente uno dei punti focali di certa black culture americana, che appunto ha questo filo rosso con un'Africa reinventata, un'Africa ricostruita di sana pianta, ovvero quello di un'utopia, un'utopia sonora, di un'utopia di liberazione che è declinata nelle maniere più varie e possibili, anche impossibili alcune volte, se ricordiamo sia San Ra ma anche Phil Coran, vestiario e atteggiamenti a dir poco strampalati, tanto insomma da anche passare ogni tanto da folli maestri, poi in realtà insomma c'è un disegno sì folle ma lucidamente, splendidamente folle, vicino appunto a un'idea di grande utopia, anche di fraternità, oltre insomma a quelle insomma idee più ecumeniche che sicuramente non attraversano Phil Coran, che fa uscire in questi giorni questo splendido disco dedicato appunto ai cieli africani. Non è un caso che appunto ci sia l'Africa, ma soprattutto il cielo e questa dimensione quindi volatile, questa dimensione assolutamente ultraterrena, che attraversa un disco veramente di grande pathos, oltre che di ricerca musicale legata appunto alla madre Africa, che ha già aperto 451 in questa seconda parte e che continuerà con uno dei progetti più interessanti proveniente proprio dal continente nero, come diceva qualche italiano qualche anno fa. È anche un po' inquietante la canzone, ci sono degli elementi un po' sì, discutibili, un po' leggermente razzisti comunque. Lasciamo perdere quell'aspetto, che un'Italia purtroppo, anzi per fortuna, che è scomparsa in parte, per altri luoghi comuni è ancora ben presente una certa visione dell'Africa in questo bel paese, per modo di dire, il paese dove batte sempre il sole. Dove batte sempre il sole, così funziona. Il granaio d'Europa. Queste le famose definizioni. Insomma, tra ventennio e post-ventennio, quelle robe simpatiche. Esatto. Bene. Vabbè, andiamo invece noi con una nostra visione, chiaramente molto, almeno attenta, molto più attenta rispetto appunto alle culture, alle dimensioni anche espressive di questa terra meravigliosa che è l'Africa, ed è appunto il secondo progetto, quello inserito dentro la zona geografica che abbiamo scelto appunto legata all'Africa. Il secondo progetto che inseriamo si chiama Congotronics, è un progetto appunto nato da una formazione cresciuta musicalmente in Congo, e il primo disco che abbiamo proprio selezionato, che si intitola Konono numero 1, realizzato nel 2004, un modo assolutamente innovativo anche da questa formazione africana di coniugare l'aspetto appunto tribale e le dimensioni ritmico-tribali delle origini ovviamente della musica africana, però inserite dentro un quadro chiaramente molto proiettato verso il futuro, soprattutto anche verso, in termini dialettici, nei confronti di tutte le musiche altre degli altri continenti, compreso soprattutto una certa attenzione anche alla tecnologia, un'attitudine, un'attenzione importantissima che coniuga questi due elementi, che forse come formazione e come progetto riesce a rappresentare molto bene, credo, forse più di qualsiasi altro progetto di stasera, l'idea che ha attraversato noi in questa definizione di avant traditional. E a questo punto ci andiamo ad ascoltare con Onno numero 1 questa formazione, che è assolutamente da seguire, con Gotronics, album splendido, andiamocelo ad ascoltare insieme. Yeah. Beh, è veramente notevole il lavoro di Extreme Music from Africa. Beh, è una sorta di chicchetta questa sera dal continente africano, che si vorrebbe insomma legato a musicalità che conosciamo. Congotronics già hanno spostato, e anche lo stesso Phil Coran, tutto discorso insomma che si può legare a musiche diciamo divulgate in termine così di facciata, ecco, africaneggiante. Poi in realtà insomma la faccenda, entrando dentro le musiche africane, è veramente molto molto più complessa. Già negli anni 70 molti si accorsero che esisteva del grandissimo funky, del quello che poi è stato chiamato afrobeat, e del grandissimo del jazz, grandi musicisti che partivano soprattutto dal Sudafrica, e quindi si è scoperto anche musiche ritualistiche che hanno molto influenzato anche certe composizioni poi dei minimalisti. Molti furono anche gli studi di popolazioni marocchine, ad esempio, legate appunto ad antichi rituali che hanno appunto tanto a che vedere con le musiche d'avanguardia, tanto con antichissime tradizioni che vanno appunto veramente nella notte dei tempi, rispetto appunto a una delle civiltà più antiche di sempre, quella appunto del Nord Africa. E ricordiamoci insomma l'Egitto, oltre che essere protagonista in questi giorni di qualcosa che veramente con cuore aperto lo diciamo, rappresenti qualcosa di importante e non sia insomma un boomerang come magari è stato quello iraniano alla fine degli anni 70, che sì, aveva dato tanta, tanta speranza. Crediamo di no, però insomma vedremo che succederà. Magari, chissà, magari potremo anche dargli una mano. Vabbè. Questo vedremo, no? C'è una voce un po' da... aspetta, Che voce hai, caro? Una voce un po' morta, Ma tu sei sempre un po'... come... grazie. No, no, morto, un po' suadente, come dire, insinuante. Insinuante. Insinuante e soadente. Sei salvato in corner, dai. E con appunto Phil Coran, Congotronics, abbiamo spostato, se con Coran, no, da un jazz cosmicheggiante e un'Africa ancestrale, con Congotronics una afrotecno quasi, Extreme Music from Africa della Susie Lowley, questa particolarità di aver ricercato nelle vesti di William Bennett, uno dei più terribili, terrificanti e estremisti musicali degli ultimi 30 anni, con i suoi White House, scorribande musicali che sembravano veramente fine a se stessi. In realtà la faccenda, come ad esempio per Merzbow, è stata ben diversa. Adesso a copertine su Wire, finalmente viene riscoperta la musica di White House come protagonista di tante musiche americane del nuovo noise, riconosciuti come grandi maestri anche dalla Mego, ad esempio, austriaca, di Pete, di Peter Reberg. Insomma, White House con William Bennett, che veramente si prendono una grande rivincita in termini insomma di importanza storica. E William Bennett alla fine degli anni 90, in maniera assolutamente potremmo dire altruistica, se non fosse così un termine abbastanza semplicistico, in realtà in maniera piuttosto intelligente, e si è preso buona parte del materiale africano che girava in rete in quel periodo, alla fine degli anni 90, ha contattato artisti vari africani che insomma sembravano piuttosto interessanti e anche vicini a certe sperimentazioni di White House, paradossale, ma in realtà poi le cose appunto, come dicevo prima, sono ben più complesse. Insomma, ci sono anche le città in Africa, c'era una forte urbanizzazione e forse per certi aspetti insomma se la vivono anche in maniera più violenta rispetto a noi, proprio per un cambio repentino che c'è stato negli ultimi decenni. Ma questo, vabbè, è un discorso lungo di che ci porterebbe veramente tanto lontano. E con Lucian Mumbutu e Electricity siamo andati appunto a trovare e a ritrovare anzi una ricerca assolutamente geniale e assolutamente seminale anche rispetto a musicalità e attitudini che hanno attraversato poi gli anni zero. Stiamo parlando appunto di Extreme Music from Africa, che usciva proprio nel 1997 e quindi faceva un po' da apristrada poi per quanto riguarda un modo di spostare l'Africa che attraverserà poi il nuovo noise, soprattutto in campo americano. E dall'Africa ci spostiamo un'altra terra molto interessante. Eh beh, la terra asiatica, in particolar modo l'Asia rappresentata praticamente dal Giappone con tre autori, anzi oltretutto in realtà due autrici e un autore. La prima è un'autrice che è passata attraverso 451 parecchie volte, la grandissima Ikue Mori. Il disco in questione si intitola 100 Aspects of a Moon, uscito nel 2000, uscito oltretutto come sempre ormai da parte di Ikue Mori, che fa pubblicare i dischi più importanti sempre dalla Zadig negli ultimi anni, un disco che rappresenta oltretutto un film, cartone animato, che ha realizzato la stessa Ikue Mori, sarebbe interessante guardarlo, e rappresenta una sorta di ricostruzione anche quasi ancestrale delle origini dal Giappone. Dunque c'è tutto un discorso connesso alla condizione tradizionale della musica, dell'aspetto espressivo in questa terra, ovviamente riprodotto in un'ottica assolutamente tecnologica. La Morris è sempre caratterizzata dai suoi aspetti connessi soprattutto all'utilizzo e all'sperimentazione con la drum machine, in particolar modo riproducendo delle ritmiche ovviamente appunto primordiali o connesse comunque alla tradizione giapponese, ma riportate ovviamente su un terreno tecnologico. La tecnologia e l'aspetto primordiale delle origini è presente in gran parte anche dell'arte giapponese, non sì, soltanto dell'aspetto musicale, nel un cinema, un paradosso molto affascinante del sì, Giappone, nei cartoni animati in cui siamo cresciuti anche noi come generazione, i primi cartoni animati giapponesi che arrivarono in Italia, questa commistione fortissima tra elementi sia nel linguaggio che nei gesti, nella gestualità, legate appunto alle tradizioni del Giappone, riportate poi in un'ottica tecnologica e futuristica. E qua la Mori rappresenta perfettamente questo aspetto, oltre agli altri dischi in cui si è sempre fortemente soffermata su questi, in termini appunto dialettici, rispetto a questi elementi. Ci andiamo ad ascoltare dunque una traccia da 100 Aspects of the Moon, Ikue Mori, Zadig. Thank you. Yeah. E siamo rientrati in diretta, abbiamo mixato nella parte dedicata al Giappone, all'Asia in particolar modo, poi abbiamo scoperto insomma che tutti e tre gli autori comunque girano e provengono dal Giappone. Abbiamo mixato un splendido lavoro di un trio dove è presente il giapponese Shoko Ikage con Philip Gelb e Brett Lerner, Indie Dancing, uscito nel 99, un lavoro molto interessante dove Shoko Ikage suona il koto, strumento tipico giapponese, oltretutto trattato dall'autore successivo che abbiamo ancora in sottofondo, che è Miya Masaoka, che è una musicista di koto, oltretutto un koto che viene anche spesso manipolato, trasformato dal punto di vista tecnologico, costruendo poi ovviamente delle atmosfere che spaziano da rimandi quasi ancestrali alla tradizione, ma soprattutto una dimensione di sperimentazione avveniristica molto tecnologica che la stessa Miya Masaoka ha sviluppato ormai in più di 20 anni di carriera. Musicista oltretutto che ha lavorato con grandi musicisti, da Fred Frith a Peter Kowald e a tantissimi altri, muovendosi soprattutto negli Stati Uniti d'America, dove ha sviluppato appunto un interesse sempre più marcato soprattutto a San Francisco nei confronti della musica d'avanguardia, lavorando soprattutto al Mills College e studiando sotto il grande Elvin Karan. E dunque musicista a tutto tondo, ha costruito sempre di più tra gli anni 90 e gli anni 0 dei propri dischi e spesso oltretutto prodotti dalla Zadig, e la sua particolarità è sviluppare appunto questo aspetto tecnologico partendo da uno strumento tradizionale e stravolgendolo, come poi è successo anche in molti casi anche qua in Occidente con grandi autori che sono passati attraverso 451, dove appunto strumenti tipici tradizionali venivano poi stravolti, trasformati, appunto manipolati quasi geneticamente. E da Miya Masaoka chiudiamo questo piccolo quadretto legato appunto al Giappone, ormai possiamo dirlo più che l'elemento asiatico, proprio l'elemento giapponese presente come terra principale di questo comparto Asia, e andiamo verso il nostro comparto, però in una dimensione differente, no? Beh sì, con Ikemori, Shoko e Ikage e Miya Masaoka, appunto, abbiamo creato questo gruppo dedicato appunto al Giappone, e di rimando, anche se sembrerebbe paradossale, però poi in realtà la faccenda si assomiglierà anche per un canto che ricorda quasi appunto un rituale vocale giapponese o asiatico, quantomeno Iva Bitova, cantante celeberrima dentro i circuiti della musica colta dell'ex Repubblica Cecoslovacca, nasce appunto come ancora artista cecoslovacca, la nostra Bitova, poi nel corso degli anni, soprattutto insomma alla fine degli anni 90, soprattutto con un disco bellissimo insieme a Vladimir Vaclavec, veramente diventa famosa in tutto il mondo, perlomeno il mondo delle sperimentazioni, delle musiche che insomma vanno a ricercare degli altrove i sonori, appunto ricerche che portano questa grandiosa cantante verso i lidi dell'impro radicale, verso i lidi di una elettronica strattizzata, una strumentazione che viene trattata in maniera decisamente poco ortodossa, ma sempre con quella particolarità dell'Est Europa, un po' prima con Lucas Ligeti, il figlio dello storico Gheorghi Ligeti, dicevamo dell'Est, dicevamo di queste sonorità barbariche, nel senso di questo folk antico che si nutre fondamentalmente appunto di canti anche che potrebbero sembrare bislacchi, in realtà hanno un grande senso armonico, se non melodioso, che appunto è un tutt'uno, quasi sembra un tutt'uno con la musica di ricerca, le musiche appunto avanguardistiche di questa sera, dentro 451 frammenti sonori, e andiamo appunto a trovare da questo splendido disco Bilè Inferno, insieme a Vac Lavec, appunto dandoci sentire questo strano mondo canoro e sonoro dei due dell'ex Repubblica Ceca. Ah! Muže je labuť, která zpívá červený hrom, který kameny drtí. Beh, veramente interessante il mondo sonoro di Ingrid Laubrock, tedesca di Giacomagna, trapiantata in quella di Londra, di sicuramente, insomma, ha avuto modo anche di rapportarsi con la grande tradizione inglese dell'impro radicale, in primis Evan Parker, ma come non citare il gigantesco Derek Bailey, insomma, veramente grande genie musicali. E da Laubrock, così per chiudere, insomma, il nostro discorso sulla avant traditional, come l'abbiamo chiamato questa sera qua, 451 frammenti sonori, sicuramente riprende un certo jazz improvvisativo radicale di stampo europeo, e anche questo in maniera forse più tedesca che inglese, riprende anche molta musica da camera, molta musica proprio strettamente classica, però facendo questo estremizza sia la musica da camera sia l'impro radicale, che già, insomma, potrebbe essere anche una sorta di paradosso questo, e lo fa però attraverso l'uso del silenzio. Quindi è molto interessante come ci sia questi intervalli di silenzio decisamente sonoro dentro le strutture della Ingrid Laubrock, che abbiamo ascoltato con il suo splendido disco Anti-House, e abbiamo chiuso, insomma, con la vecchia Europa, che poi ogni tanto forse non è così vecchia, anche se c'è sempre, non si capisce mai bene, una sorta di pesantezza dentro le produzioni europee. Chissà da dove deriva. Forse un po' troppo vecchia, però vabbè, di fatto poi forse così il peso storico di tanti secoli di musica si fanno sentire dentro le musiche di ricerca europee, rispetto invece a musiche sicuramente che si cibano di così di magari ingredienti più nutrienti, nel senso di più freschi, ecco. Però vabbè, potrebbe anche essere una stupidaggine, ma, diciamo, ma secondo me no, no, non dici mai stupidaggine, così, vale. Tu non dici mai stupidaggine. Grazie, grazie, sei un bravissimo ragazzo. Va bene, a questo punto noi salutiamo tutti gli ascoltatori, speriamo che questo viaggio nelle musiche avant traditional vi abbiano comunque coinvolto e incuriosito, e ovviamente vi aspettiamo per la prossima domenica con una puntata che, insomma, ci saranno delle belle sorprese. Sì, portiamo dei cani qua in trasmissione e registriamo i cani. Va bene, dato che ce ne sono un sacco di cani in giro, quelli, ma quelli brutti, morfi, quelli brutti, ce n'è uno soprattutto, però sta a Torino quello, quello veramente col maglione, quello col maglione che non lava mai, tutto il resto lo lava, quello il maglione gli no. Si infeltrissero tutti sti maglioni, anche in testa gli si infeltrisse, la testa c'era già infeltrita. Buonanotte da Max Macchia e da Eliseo Scarpa. Ciao, belli uomini. Bene, no.